todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre. Yo, yo. E dai che tutto cambia. Sta pure a imboccare la primavera con la giornata d'anticipo quest'anno, sì, ne moi. Trillino Easy che non ho ancora messo il primo pezzo. Oh. Allora come yo yo, come te sbagli, la tua radionina è sempre sintonizzata sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente, sine moi. Ai ai ai ai ai. Yeah. Vi ricordo che il numero di telefono è sempre lo stesso da quasi 40 anni, ormai stiamo ai 37, vedi un po'. 06 49 17 50 per comunicarci il vostro punto d'ascolto, o semplicemente che siate online, o un trilino per farmela rimettere punte da capo, anche se oggi non sarò su quella piccola isoletta delle West Indies chiamata Jamaica Star. Ma diciamo che esplorerò uno dei duetti probabilmente più riusciti, insomma, nella storia della musica. Forse mi sto allargando, però sicuramente, insomma, quella coppia di cantanti che con un paio, due, tre CD che hanno fatto sognare il mondo degli anni 50 più o meno. Sto parlando di Ella e Lewis. Oggi smooth, sì. Star shining bright above you. Awo. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of. And kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams. Till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Don't did it, don't did do for people. Yeah, yeah. I'm longing to linger till dawn, dear. Did it, did it, bubble, just saying this. The sweet dreams, dreaming till something's fine. You keep dreaming. Gotta keep dreaming. Beh, si sa che in quel periodo si reinterpretavano canzoni dei grandi musicisti. Questa che vado a suonare è Parole e musica di Gershwin. Love is here to stay. Love is here to say. Not for all year, but ever and a day. All the radio and the telephone that we know may just be passing fancies, and then time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we going on a long, long way. Rockets me crumble, Gibraltar me tumble, they only made of clay. But I che poi ella, insomma, una signora, una lady della musica nera. Lui un po' meno. Ma non da meno. My love is here to stay. Che poi parliamo se chiaro, mancano una manciatina dei minuti e sta in bocca la primavera. E se sa che è la stagione dell'amore. Poi in italiano suona particolarmente bene, perché ella e lui, insomma, un vobis maiestatis. Insomma, una delle voci più pulite insieme a una di quelle più zozze. Sono pure difficili da tagliare queste canzoni, perché una volta che partono. Non mi toglieranno mai questo da me, Sin. Awo. The way you sip your tea. The memory of all that. No, no, they can't take that away. The way your smile just be. Com'era il tuo sorriso? The way you sing off key. Come cantavi ogni chiave? The way you haunt my dream. Come facevi battere i miei sogni? No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key. The way you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of us. The way you hold your knife, where we dance till three, where you changed my life. No.

should I cry? Ever sigh, wonder why? Yeah. I should have seen the signal to stop. What a flop. This is how the story ends. I let him turn me down and say, can't we be, can't we be, can't we be, can't we be, can't we be, can't we be friends? Oh yes. Che invece questa che ci andiamo ad ascoltare è di un altro grande compositore, Ai Berlin, ed è probabilmente anche il più famoso dei loro duetti, quello che dà il titolo all'album che hanno fatto insieme. Sto parlando di Cheek to Cheek, un album bellissimo. Io adesso suonerò alcuni di quei duetti, perché ci sono altri duetti in giro che sono riuscito a rimediare, però insomma un album che io veramente vi consiglio. L'ha ristampato una di queste etichette, la Verve, da poco, insomma si trova pure a basso prezzo, ve lo consiglio veramente, perché Cheek to Cheek spacca. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Che poi ovviamente anche le loro combo ve le potete scaricare, ma se vi capita scaricatevi la copertina di Cheek to Cheek, perché è fantastica, loro due seduti su due sedioline. Seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you. Che poi la cosa che dicevo delle voci, adesso non ce l'ho davanti, però insomma mi pare di ricordarmi la copertina di Cheek to Cheek. Ci sta lei seduta su questa sediolina, ovviamente con una signora, lui comunque con la tromba, ma tipo in pantaloncini con le bretelle, abbastanza trash. I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you, the charm about you will carry me through to anche il testo è fantastico. Vabbè, proseguiamo in questa lunga sequenza di canzoni praticamente tutte d'amore, ma come dicevo prima sta a imboccare la primavera, mancherà manco un'oretta, quindi Stars Fell on Alabama. Da capo, perché la posatezza, la tranquillità con cui questa donna riesce a cantare è veramente incredibile. Una voce che esce piano ma forte. Like a hammer, hammer, hammer. My arms imagination. Situation. So heavenly. So heavenly. A fairyland where no one else could enter. In the center. Just you and me. Yes. My heart beat like a hammer. Pure qua sui testi, me la stavo sentendo, non l'ho tradotta mano a mano. Comunque, insomma, i signori Perkins, gli autori di musica e parole. E adesso MJ Lawrence è, diciamo, il compositore e l'autore di questa canzone. Tenderly. Lo so che più musica da sera, perché casomai nella frenesia del traffico, della quotidianità in cui uno ogni giorno sta immerso. Però alla fine rallenta un po' il battito di quello che ci circonda. Musica di mezzo secolo fa, eh? Ella è lui su Onda Rossa. Attica Blues. Doce doce. Dai che è primavera, dai. Tenderly. Poi diciamo che tutte queste canzoni che ci stiamo ascoltando hanno attinto ai grossi compositori, per chi è andato in fissa anche non lo so, col mondo del jazz, insomma con l'evoluzione anche di questa musica, e si è andato a vedere i personaggi da cui sono tratti gli standard, sono i grandi compositori degli anni, dei primi del Novecento fino al 1940, e tra questi ovviamente Gershwin se la fa un po' da padrone. Infatti adesso ci andiamo ad ascoltare due interpretazioni appunto di L. Lewis di due canzoni di Gershwin. Things have come to a pretty pass, our romance is growing flat, for you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be, oh I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say either, you say neither. C'è presente quando ti batti i becchi, no? Una cosa si dice in un modo, si dice in un altro, il marciapiede o il marciapiede? Let's call the whole thing off. Yes, you like potato. I like potato, you like tomato, I like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off, but oh, if we call the whole thing off, then we must part, and oh, if we ever part, then that might break my heart, so like pajamas, I like pajamas, I'll wear pajamas, give up pajamas, for we know we need each other, so we better call it off, off, oh, let's call the whole thing off, yeah. You say laughter and I say laughter, you say after and I say after, laughter. Vanilla and I like vanilla, you sarsaparilla and I sarsaparilla, vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry, let's call the whole thing off, but oh, if we call the whole thing off, then we must part, and oh, if we ever part, then that might break my heart, so tomato, and you like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off, but oh, if we call the whole thing off, then we must part, and oh, if we ever part, then that might break my heart, oh, so if you like pajamas, like pajamas, I wear pajamas. You got pajamas. But we know we. Poi, come spesso accade, proprio sentendo le canzoni, facendo le trasmissioni, che ti vengono in mente altre trasmissioni. Ma adesso ci andiamo a sentire a Foggy Day, sempre tra, diciamo, le grandi composizioni di Gershwin. Ma farò una trasmissione tutta su Gershwin, probabilmente anche solo musicale, proprio per sentirci le melodie. Vabbè, finite sono le opere teatrali, ci sono c'ho già in mente, insomma, tutto un repartino di dove stanno messi i CD che va. La faccio su Gershwin. Mo non so se la prossima, ma la faccio. Comunque, a Foggy Days, Ella e Lewis, Radio Onda Rossa. I was a stranger in this city, out of town with the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? What's the age of miracles? Hadn't passed. Yes, for suddenly, baby, I saw you there. Through the fog in London town, the sun was shining everywhere. A foggy day in London town had me low and it had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. Beh, se erano italiani, il giorno di nebbia al Foggy Days sarebbe stato a Milano, invece in questo caso è a Londra. Thank you. Beh sì, so tutte canzoni d'amore, ma d'altronde l'avevo detto sin dall'inizio. Fine Romance. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we should be like a couple of hot tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance. It's a fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we two should be like clams in a dish of chowder. But we just fizz like parts of settler's powder. Yes, fine romance with no glitches. A fine romance with no bitches. Just as hard to land as the Eden of France. I haven't got a chance. This is a fine romance. Judges, two old fogies who need crutches. True love should have the thrills that a healthy crime has. But oh, we don't have the thrills that the march of time has. But other than fine romance, my good woman, my strong age in the wood. Woman, you never give the Arkansas and a glance. No, you like cactus plants. This is a fine romance. Fine romance, my dear Duchess. Two old fogies who need crutches. True love should have the thrills that a healthy crime has. You know, Louis, we don't have half the thrills that the march of time has. Che poi, come si vede quando cambiano i compositori, quanto è diverso proprio il mood. Questo è Benny Goodman che l'ha composta sta canzone. But darling, don't be that way. Be blue. Senti che vocina. Don't cry. Anzi, visto che non l'ho fatta sentire, la rimetto subito punta e da capo, perché come in bocca è la qua, veramente non si batte. April skies are in your eyes. But darling, don't be blue. Don't cry. Oh honey, please don't be that way. Clouds in the sky should never make you feel that way. The rain will bring the violets of May. Tears are in vain, so honey, please don't be that. Benny Goodman, stiamo parlando di una canzone scritta tipo nel 1920, una cosa del genere. Va bene, io vi lascio con l'ultima traccia. E certo, prima mi metti nella merda e poi te ne vai. Cioè, io mo come rispondo a Benny Goodman? Cioè, non è che io sono nata ieri, Benny Goodman, io mi inchino davanti alla voce di Ella, poi proprio mi azzerbino per terra a pelle di leone. E poi ascoltandomelo in cuffia, io me lo so sempre, stando qua in cuffia, veramente, cioè, mi usciva la lacrimuccia, Marta, la lacrimuccia. Poi mi ha messo tutti i duetti teneri romantici con Sacmo. E infatti questo è l'ultimo di questi duetti, La tua vicinanza, The Nearest of You. Attica Blues vi saluta, ci sentiamo giovedì prossimo, puntuali come al solito, mi raccomando. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come. Sin. I need no soft light to enchant me. If you'll only grant me the right to hold you ever so tight. Thrills and delights me. Oh no, yes, just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh no. Just the nearness of you. When you in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight, yeah, babe, and to feel in the night, babe, then it is. Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que. Pasto biscum donna. Eccoci qua.